Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Lì vicino al Sacro Cuore sei rimasta ad aspettare alcune ore. Di nascosto partecipavi alla funzione onde evitare una sicura irritazione. Hai lanciato anche tu chicchi di riso in disparte con un ipocrita sorriso. Ora nervosa, fumi e ti disperi. Andy Micarelli, cantautor multiinstrumentista, nació en la localidad de Chieti, en la región del Abruzzo, en 1984, e inició su andadura musical en 2007. Con él vamos a charlar esta tarde en La Radiografía, para conocerle un poco más, tanto a él como a su música. Ciao Andy, benvenuto al nostro programma, come stai? Ciao, sto bene, un saluto a tutti gli ascoltatori di Onda Radio Cantabria, ciao. Sto bene, sono molto bene. Bienvenido a nuestro programa, Andy, encantados. Y por supuesto, como en ocasiones anteriores, contamos con Alessandro Carletti Orsini de la discográfica Music Force, quien nos hace de traductor del español al italiano y viceversa en estas entrevistas. Buenas tardes, Alessandro, igualmente bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos los oyentes, ¿cómo estás? Pues también encantada de escucharte de nuevo, de comunicarnos desde Cantabria a Italia y nada, vamos a iniciar esta entrevista, esta charla con Andy Micarelli. Andy, a finales del año pasado lanzaste tu primer trabajo titulado Ritratti, Retratos, pero antes de eso y tras tu formación de conservatorio pudiste adquirir experiencia en el ámbito profesional, trabajando con otros músicos, con otros artistas y participando en diversos festivales. ¿Cómo recuerdas esos años de aprendizaje, por así decirlo, antes de realizar tu debut discográfico? Molto importanti, fondamentali, perché attraverso l'attività live, appunto come hai detto tu, mi sono formato molto, condividendo il palco con altri musicisti, quindi con tastieristi, chitarristi, cantanti, è stata un'esperienza fondamentale che mi ha formato molto e che mi ha preparato poi all'esperienza di cantautore, appunto col disco Ritratti che è uscito a dicembre, quindi è stata un'esperienza molto importante, sono stati anni molto formativi. Sicuramente. Las experiencias antes de su primera grabación, Retratos, ha hecho fundamental por él, porque él suenó con muchos artistas importantes italianos o profesionistas, siempre italianos, y abrieron la vía por llegar a la grabación de su primer disco. En diciembre de 2012, como decíamos, apareció ese su primer disco, Ritratti, un álbum que tras escucharlo me hace recordar a otros cantautores italianos de antes, ¿no? Que conocemos aquí también en España, como por ejemplo Adriano Celentano, pero lógicamente con un toque más actual y por supuesto con el estilo personal de Andy Micarelli. Yo no sé si voy muy desencaminada, pero bueno, supongo que sea una interpretación, pues eso, muy personal. ¿Cuáles son las influencias? ¿Cuáles son los músicos que te han influenciado a lo largo de tu carrera? Beh, in primis io cito Franco Battiato perché è stato un cantautore che mi ha praticamente segnato dall'adolescenza sino ad ora. E quindi nel disco ci sono diverse canzoni autobiografiche, quindi io citerei appunto Franco Battiato, anche Adriano Celentano perché il disco è anche molto melodico. però in primis Battiato, Fabrizio De André, Francesco De Gregori. Poi, siccome nel disco c'è anche la collaborazione di un cantautore napoletano, Antonio Cessari, quindi direi che è un misto tra le mie contaminazioni cantautorali e anche un po' lo stile partenopeo napoletano, come ad esempio si può ascoltare nel brano Gina, che poi è stato il singolo per eccellenza, sul quale poi abbiamo anche realizzato un videoclip, appunto da Music Force. Ti direi che il disco è un insieme di diverse contaminazioni. La influenza más importante è del cantautore italiano Franco Battiato, però hai también Celentano, che hai linea más melodicas, y Fabrizio De André, Francesco De Gregori. Y hai también la colaborazione de un maestro napolitano, maestro y autor, que se llama Antonio Cessari, y con esa contaminación del maestro Cessari, Andrea hace una mezcla entre sus sentidos y los sentidos del maestro Cessari. Y como contador de historias, como cantautor, ¿cuáles son esas historias que nos encontramos en tu disco Ritratti? ¿De qué hablas en este álbum? Le storie del mio disco sono fondamentalmente canzoni d'amore, quindi canzoni d'amore un po' astratte che parlano ad esempio del cielo, della grandezza del cielo, che viene quindi rapportato all'amore che un uomo prova verso una donna. Storie anche del quotidiano, anche magari brani che vanno un pochettino a denunciare le attuali condizioni sociali. Però principalmente l'album si basa su storie, ecco, su storie sentimentali, storie d'amore che poi vengono vissute quotidianamente, quindi sono racconti assolutamente autobiografici. E l'amor, perché él canta soprattutto dell'amor, el amor en todas formas, como puede ser el cielo, perché uno puede hablar del cielo contando cómo puede ser una chica, un amante o otras cosas similares. Y también hay historias vividas, historias pensadas y historias sociales, porque en algunas canciones se habla de la situación actual de nuestro país. Y lógicamente esta primera obra discográfica pues tuvo que suponer algo importante en la vida, tanto personal como artística, de Andy Micarelli. ¿Cómo vivió la creación de su álbum Ritratti? Sì, diciamo che i brani sono stati inizialmente ideati soltanto per pianoforte, perché di solito il cantautore quando butta giù un brano nuovo, una creazione nuova, lo butta giù o con la chitarra o col pianoforte. Quindi principalmente sono questi due strumenti che ho usato per cominciare a mettere su i brani. Poi chiaramente conoscendo un grande tastierista e arrangiatore, Elio De Pasquale, ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a lavorare sugli arrangiamenti, quindi attraverso l'uso di strumenti ovviamente veri, quindi batteria, basso, chitarre elettriche, acustiche. Diciamo che le mie composizioni però si basano principalmente sull'uso delle chitarre acustiche, delle chitarre elettriche, essendo chiaramente un genere abbastanza melodico, ecco. Poi chiaramente in studio... Quanto tempo che hai queste canzoni? Queste canzoni circa più o meno da una decina d'anni. Chiaramente poi molti brani si buttano in un cassetto e si rivedono praticamente dopo 6-7 anni, però diciamo che i brani hanno sicuramente 7-8 anni di età. Sus canciones ya tienen 7-8-10 años, però él esperaba la ocasión para grabar y para publicar todo. Él encontró el maestro Cessari y sus canciones nacieron con la guitarra o con el piano, hasta que él encontró Elio De Pasquale, que arregló con él las canciones hasta la grabación definitiva de diciembre pasado. Del mattino mi risvegli e poi anche nell'incanto della luna. la città e noi. Quando preghi, quando parli, quando ridi e quando sogni, rinunciando a un istante per qualcosa di grande. Sei racchiusa in questo spazio, come figlia di questo mondo, principessa del mio libro, meraviglia fino in fondo. Ed ogni giorno che i miei occhi si aprono coi tuoi, e nel primo raggio del mattino mi risvegli e poi. Y esa alquimia que se da en los conciertos entre un cantautor, en este caso, y su público, supongo que continúe durante este verano, ¿no? Por Italia, ¿cómo están yendo los conciertos? Sì, il discorso live sta andando bene perché appena c'è l'opportunità, cerchiamo di organizzare concerti insieme alla Music Force in tutta Italia, perché no? Attraverso magari piccoli concerti live oppure aperture anche a band più importanti. Si cerca di piazzare la mia musica ovunque, chiaramente in contesti adatti per una musica cantautorale, insomma, oltre poi all'attività promozionale, radiofonica, televisiva, che c'è da fare ovviamente. Però l'attività live sta andando abbastanza bene, ci sono già date fissate, altre date poi usciranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Anche in Spagna? Perché no, perché no? Assolutamente, non è da escludere la cosa. A gira vendi va bien. Él empezó algunos meses después la salida del CD. Acordamos el concierto del 1 de mayo en Chieti, una fecha muy importante para él. Y en el verano él sonará en muchas partes de Italia, en las plazas, en los clubs que sean adaptos por él, porque no se puede poner Andy en un contest rock. Él tiene que suenar en un club de música cantautoral o en una plaza donde la gente quiere escuchar su música, quiere escuchar sin problemas su música. Y acerca de la actividad live, continuamos también con las radios, las televisiones y el web, porque él está ya programado en Italia en 120, 130 radios, también con las televisiones y también con el web. Y en España, pues también está aquí con nosotros en OIT Radio Cantabria, en la radiografía. Y no solo en todas esas radios, televisiones, sino que también, como comentabas, a través de internet, pues podemos disfrutar de su videoclip titulado Gina. Sembra la vecchia storia degli amori perfetti che ti portano fuori, non vogliono rimanere nella via segnata dalla grigia monotonia. Desiderano una zona d'ombra, rimanere sempre un po' in penombra. Più si cibano della felicità, più sono lungi dalla realtà. Questo, Gina, ti fai forte, vai contromano verso la sorte che ha portato lei al matrimonio, mentre tu fai la parte del demonio. Ma non ti si addice questo vestito, considerato quanto hai patito, poiché lo hai amato fin da bambina, senza mai stargli troppo vicina. Qui si tratta della vecchia convenzione che vuole dal mondo l'approvazione, che se ne frega della passione eterna, restando solo al denaro. ¿Hay algún videoclip más de su disco? ¿Hay alguna otra canción, algún otro single que también tenga su propio videoclip? Al momento no, al momento il singolo sta andando in onda, il singolo Gina, in programma abbiamo qualche altro videoclip, ma per adesso c'è solo Gina. Mm-hmm. Con il nuovo album forse? Con il nuovo album ci sarà sicuramente un altro videoclip, perché no, anche due, dai. La previsione di uscita del nuovo album? Il nuovo album è previsto per dicembre, fine dicembre credo. Ok, Noi siamo in programma un nuovo videoclip di sus canciones, perché in dicembre salirà su nuovo CD. E entonces él hará un nuovo videoclip con las canciones del nuovo CD. Muy bien, pues esperamos entonces hasta finales de este 2013 y nosotros de momento aquí en la radiografía, en OIT Radio Cantabria, seguiremos escuchando este álbum, Ritratti, Retratos, de Andy Micarelli. Él ha estado hoy con nosotros charlando unos minutos junto a Alessandro Carletti Orsini. A los dos os doy las gracias por habernos acompañado y por supuesto tenemos una nueva cita a finales de este año. Perfetto, è contentissima che hai presentato il tuo album qui. Continueranno a mettere le tue canzoni. Abbiamo già un nuovo appuntamento che è a fine dicembre per quando uscirà l'album. E quindi insomma contenti tutti di questa cosa. Nell'eventualità, se vuoi dire pure qualche contatto tuo, così almeno la gente ti può trovare. Certo, allora io prima di tutto vi ringrazio per l'ospitalità, quindi un saluto a Patrizia, a te e anche a tutti gli ascoltatori di Radio Cantabria, grazie mille. Poi vorrei ricordare a tutti i miei amici di andare sul mio sito www.emicarelli.it, di trovarmi anche su Facebook, che sono presente anche lì, e poi sono presente anche su Twitter, quindi twitter.com/andymicarelli. Per il resto, che dire, vi abbraccio tutti quanti, speriamo di vederci in occasione del nuovo disco. Allora, entonces, gracias a todos los oyentes de Radio Cantabria, a Patrizia, e la cuerda che tiene un sitio web, andymicarelli.it, también Twitter, también Facebook, y él se encuentra también en el sitio de Music Force, www.musicforce.it, e vamos a esperar por diciembre con una nueva entrevista para el nuevo CD. Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias Andy Micarelli y también a ti Alessandro, y hasta la próxima. Chao, gracias. In un istante stormi di pensieri.